La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buongiorno di festa, sia che mi sentiate in diretta o in podcast, ma comunque oggi è il primo qui di novembre, 16, 7 primi e 21 secondi in diretta da Milano. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto, Oscar Giannino. Oggi una puntata nella quale tentiamo di fare un po' di ordine e di capire tutti insieme quali sono le caratteristiche degli strumenti che vengono presentati come necessari per la lotta alla povertà nel nostro paese. Partiamo innanzitutto con qualche parola che dico io su quello che esiste: il reddito di inclusione, che viene potenziato nella legge di bilancio con 300 milioni per l'anno prossimo. Ma vi dico subito che non è la risposta al problema. È un problema che nel nostro paese coloro che sono in povertà assoluta, la povertà assoluta insieme alla povertà relativa sono i due indicatori per misurare la povertà, ma la povertà assoluta è quello che misura la povertà vera. La povertà relativa è una specie di, non è un indice di deprivazione, è un indice che ha a che vedere con la distribuzione del reddito. Ma in povertà assoluta, cioè quella che viene calcolata dall'Istat in maniera diversa da regione a regione in ragione del diverso potere d'acquisto su un paniere minimo di beni e servizi il cui acquisto viene identificato come la soglia minima di dignità, ecco, in quella fascia ci sono nel nostro paese 1,7 milioni di famiglie, cioè 4,7 milioni di persone. A oggi, da un anno a questa parte, la prima parzialissima risposta avviene appunto con il REI, il reddito di inclusione, che ora vi spiego e vi dirò come viene potenziato. Però il reddito di inclusione, anche come viene potenziato nella legge di bilancio 2018, cioè con i 300 milioni in più e quindi superando per la prima volta i 2 miliardi complessivi di stanziamento annuo per il 2018, riuscirà a interessare purtroppo un numero di famiglie molto basse rispetto a 1,6 milioni che sono coloro che stanno nella povertà assoluta del nostro paese. Cioè stiamo parlando di circa 110.000 famiglie su 1.600.000, ecco, questo per darvi l'idea di quanto siamo lontani dall'ordine di grandezza per cui si possa davvero dire che il reddito di inclusione è una misura di contrasto alla povertà. È un primo gradino di una formula. Per la precisione non sono neanche 110.000, passeranno da 100.100 le famiglie che avrebbero diritto al beneficio, come era nel 2017, a 106.000. Ecco, quindi 106.000. In teoria, coloro che hanno i requisiti per chiedere il REI dal 1 dicembre del 2017 sono 499.800 persone. Però siamo ancora lontani. Il reddito di inclusione ha delle caratteristiche restrittive, perché il decreto che ha stabilito le caratteristiche di questo reddito di inclusione stabiliva che l'aiuto corrispondesse al massimo a quello dell'assegno sociale per gli over 65 anni senza reddito. Quindi stiamo parlando di una cifra che, a seconda del numero dei componenti della famiglia e della situazione di famiglia e di reddito, va da 188 euro per nuclei formati da un solo soggetto ad arrivare a 485 euro con quelli con più di 5 elementi, quindi 485 euro in tutto per famiglie di 5 o più elementi. Quindi siamo molto lontani dalla soglia necessaria per dare una risposta alla povertà assoluta. Quindi la platea è ristretta, le associazioni del terzo settore, che da sempre si battono per questo, hanno sempre indicato che da questi 2 miliardi che riguardano 110.000 famiglie su 1.600.000 in povertà assoluta, avremo bisogno di passare ad almeno 7-8 miliardi. Ripeto, a trovarsi in condizioni di povertà assoluta sono nel nostro paese più di 4,7 milioni di italiani, stiamo parlando di quasi l'8% della popolazione complessiva. Questa è la situazione esistente oggi. Oggi nella puntata tentiamo di capire meglio invece quali sono le caratteristiche degli altri strumenti che vengono offerti nella discussione politica. Qualche giorno fa il segretario del PD Matteo Renzi ha ribadito che una di queste proposte, il reddito di cittadinanza dei 5 Stelle, di cui parleremo riepilogandovi insieme a una deputata dei 5 Stelle quali sono le sue caratteristiche, ecco, il reddito di cittadinanza è una di queste, ne vedremo le caratteristiche, vedremo quanto costa e com'è congegnato. Il segretario del PD Matteo Renzi ha detto no, non è la nostra proposta, noi siamo per aumentare l'impegno nella lotta alla povertà, ma la nostra proposta è diversa. Lui ha parlato di un salario minimo. Bisogna vedere se avesse davvero in testa il salario minimo o un reddito minimo, che sono cose, il reddito minimo garantito sono cose molto diverse. Il salario minimo è per chi il lavoro ce l'ha ed è nei contratti. Però noi tenteremo di capire, di riepilogarvi anche il salario minimo da una parte, dove c'è e a che cosa serve, e che cos'è il reddito minimo garantito. E questa è una seconda strada rispetto a quella del reddito di cittadinanza. Poi c'è una terza strada che vedremo di spiegarvi anch'essa, che è totalmente diversa, è l'imposta negativa sui redditi per chi è al di sotto del minimo vitale. Questa è una proposta liberale, liberista, che nasce nella storia da un'idea di Hayek e poi rilanciata da Milton Friedman. Tenteremo di capire anche questa via diversa, quindi una puntata un po', se mi consentite, didascalica, perché nel vortice della campagna elettorale, che dalla Sicilia tra pochi giorni fino a quella nazionale sarà ininterrotta, non è affatto detto che vi spieghino davvero di che cosa stanno parlando. Nella concitazione delle polemiche tra loro sfugge poi alla fine a moltissimi di che cosa si parla davvero. Intanto vi ho riepilogato le caratteristiche e i limiti, che sono molto profondi, del reddito di inclusione, il REI. È vero, va riconosciuto, è stato il primo strumento che nasce con l'idea di essere universale, in realtà, come avete visto dai numeri, non lo è, per il contrasto alla povertà. Ricordo a tutti che i bonus, in cui abbiamo speso decine e decine di miliardi di euro in questi ultimi 4 anni, non hanno, ohimè, toccato i poveri e gli incapienti, e questo è stato uno dei loro limiti di fondo. Allora, cominciamo con due delle tre proposte, fino alle 4:30 e anche un po' oltre, e cioè tentando di capire prima che cosa ha in mente Renzi quando parla di salario minimo, sempre che non fosse il reddito minimo garantito, perché io questo non l'ho capito ancora. E allora, per parlarci di questo, abbiamo con noi Andrea Garnero, che è un economista presso il Dipartimento Lavoro e Affari Sociali dell'OCSE, e questa è proprio una delle sue, dei suoi cavalli di battaglia, per così dire. Grazie di essere con noi in questo 1° novembre. Grazie a voi. E poi, per farci riepilogare e spiegare dalla fonte diretta, cioè dai 5 Stelle, in cosa consiste, a chi è rivolto, con che caratteristiche, con che condizionalità e quanto costa il reddito di cittadinanza, è con noi, e la ringrazio, la deputata dei 5 Stelle, membro della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione, Laura Castelli. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a voi e grazie. Allora, Garnero, innanzitutto, Renzi, secondo lei parlava di salario minimo o di reddito minimo garantito? Allora, io onestamente non sono nella testa di Renzi, ho nessuno sentito di noi. Una dichiarazione nel discorso, penso parlasse di salario minimo, perché ci sono alcune proposte, lui mi sembra l'abbia anche detto, dell'area più sinistra del partito, attualmente in discussione alla Commissione Lavoro, mentre non mi sembra che nel partito, anche se diciamo non sono discussioni che seguo quotidianamente, il tema del reddito minimo invece abbia ancora fatto presa. Quindi tendenzialmente direi che parlasse di salario minimo. Esattamente. Vogliamo ricordare in che cosa consiste nei paesi in cui c'è, in che cosa potrebbe consistere in Italia? Sì, il salario minimo è uno strumento molto preciso, che appunto è importante differenziare dal reddito minimo o da nomi simili, che però hanno funzioni ben diverse. è il minimo che una persona deve essere pagata per ora di lavoro, tendenzialmente è definito o in base mensile o comunque alla fine per quanto, per la quantità di lavoro, quindi per le ore di lavoro. Esiste in moltissimi paesi, esiste forse nel 90% dei paesi del mondo, però è interessante che in Europa diversi paesi non ce l'hanno, l'Italia non ce l'ha, non ce l'ha l'Austria, non ce l'aveva la Germania fino al 2015, non ce l'hanno i paesi scandinavi. Che non sono sicuramente paesi dove si viva male o dove le condizioni di lavoro siano negative, perché in questi paesi, al posto di un salario minimo nazionale, che è una figura, diciamo una cifra ben precisa, in Germania erano gli 8,50 euro quando è stato introdotto il 2015, quindi bisogna essere pagati almeno 8,50 euro all'ordi all'ora per ogni ora di lavoro. In Italia, nei paesi scandinavi, non esiste il salario minimo nazionale, ma esistono i minimi tabellari, i minimi fissati nei contratti collettivi, che se i contratti collettivi coprono una fetta importante della popolazione e soprattutto sono rispettati, possono avere lo stesso effetto, ecco, in qualche modo hanno la stessa funzione. Se invece la copertura dei contratti collettivi, cioè il numero di contratti che coprono lavoratori è in discesa e sempre meno persone sono coperte, oppure come potrebbe essere nel caso italiano, una quota importante di lavoratori è pagata meno dei minimi stabiliti dai contratti perché i datori di lavoro cercano modi pagare meno per ragioni varie, questo allora pone un problema di equità. Poi magari parleremo più nel dettaglio di quale può essere il ruolo del salario minimo in una strategia di lotta della povertà. Ma io ne vorrei subito, secondo lei, saperlo invece. Ho proprio detto che il salario minimo è una retribuzione minima oraria. Allora, la povertà deriva da tanti fattori, principalmente essere al lavoro, no? Come ha detto lei, quindi non per i disoccupati, il salario minimo non si rivolge ai disoccupati. La povertà dipende dal numero di ore di lavoro. Quindi se si lavora part time o se si lavora temporanei un paio di settimane al mese o un paio di mesi all'anno, e poi deriva dal numero di familiari a carico. Avere figli o genitori anziani a carico ovviamente aumenta i costi che non vengono tenuti in considerazione nello stipendio. Quindi questi tre fattori, lavorare o no, il numero di ore di lavoro e familiari a carico, rendono il salario minimo orario di sé per sé non lo strumento migliore o più importante per lottare contro la povertà, perché non basta ovviamente anche un salario minimo molto elevato, se si lavora una sola ora a settimana o un paio d'ore a settimana o qualche mese all'anno, non sarà sufficiente a portare fuori la persona dalla povertà, quindi è solo uno strumento per garantire un minimo di dignità, chiamiamolo così, per il lavoratore, e anche una competizione equa tra le imprese. Quindi c'è un minimo sotto il quale non si può pagare, è un dibattito che appunto anche in questi giorni c'è sulla questione dei lavoratori che vengono mandati dai paesi dell'Est Europa a lavorare nei paesi della vecchia Europa, dell'Europa più sviluppata, a salari molto più bassi. Beh, quello che la direttiva dell'Unione Europea adesso vuole stabilire che questo non sia possibile, che i minimi nazionali, i minimi di contratti debbano essere rispettati anche per questi lavoratori. Per questo, quindi per garantire una competizione equa tra le imprese e una retribuzione dignitosa a tutti i lavoratori, il salario minimo è utile. In una strategia di lotta contro la povertà può essere un piccolo strumento utile, ma molto parziale, serve molto altro, e sono gli altri strumenti che lei ha indicato, dal reddito il reddito di inserimento, oppure l'imposta negativa, oppure forse un mondo. Non ho capito però per una cosa, cioè tentiamo di spiegare ai nostri ascoltatori perché in Italia la diffidenza, mi perdoni, dei sindacati verso il salario minimo è sempre stata molto forte. Perché, e questo in realtà è sempre stato in tutti i paesi, anche in Terra, prima che fosse introdotto il salario minimo negli anni 90 da Blair, i sindacati sono sempre stati opposti perché preferiscono negoziare settore per settore i salari minimi. Effettivamente, se guardiamo ai valori dei minimi negoziati dai sindacati, vediamo che questi minimi sono più elevati del salario minimo nazionale. Da una parte è normale, perché il salario minimo nazionale deve coprire dall'agricoltura ai call center, alla finanza, alle banche, alle scuole, quindi deve coprire tutte le funzioni, mentre i contratti collettivi sono specifici per ogni settore, quindi possono prendere in considerazione anche i settori in cui si può pagare di più e quindi in media dare dei salari più elevati. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è anche una ragione di esistenza stessa dei sindacati e delle parti sociali, perché ovviamente i sindacati sono contro, anche la Confindustria non è a favore al momento in Italia, perché ovviamente verrebbe un po' a meno il ruolo di fissazione dei salari, che è uno dei compiti centrali dei sindacati al giorno d'oggi in Italia, cioè negoziare i contratti collettivi che si applicano almeno sulla carta, soprattutto sulla carta direi, a tutti i lavoratori. Che poi l'effetto concreto in pratica sia un po' diverso è una questione che tarda ancora a venire, ma quello che noi abbiamo visto in Inghilterra, ma anche in Germania, dove i sindacati negli anni 90 erano opposti a un salario minimo nazionale, con la caduta della copertura dei contratti collettivi, cioè contratti collettivi che coprivano sempre meno persone, povertà al lavoro, cioè di persone che lavorano ma ciononostante sono povere, che aumenta, disuguaglianza che aumenta, i sindacati tedeschi hanno cominciato a cambiare idea e a un certo punto hanno supportato l'idea di avere un salario minimo nazionale. Allora, grazie intanto per averci spiegato come funziona altrove, che finalità e concreti effetti potrebbe avere in Italia il salario minimo. Andiamo invece alla proposta che è il cavallo di battaglia, cioè formalizzata appena sono entrati in Parlamento e che c'era già nella loro campagna elettorale del 2013 dei 5 Stelle, cioè il reddito di cittadinanza. Qui ci spostiamo verso una misura che, diciamo, in termini tecnici è universale ed è condizionata, come sentirete, però intanto Laura Castelli, ripeto, cioè, partiamo dal presupposto che chi ci ascolta non è chiamato a saperne nulla, quindi l'identificazione precisa, a chi sarebbe rivolto, con quali soglie di reddito, in che cosa potrebbe consistere. Io ho dato la cifra, che è molto bassa, del reddito di inclusione, che va dai 188 euro ai 480 euro con famiglia di almeno 5 componenti, quindi stiamo parlando di una cifra limitatissima, e nel vostro caso quale sarebbe la condizionalità e naturalmente i costi e come verrebbero affrontati. Allora, prego Castelli. Allora, mi faccia dire innanzitutto che salario minimo e reddito non sono uno che esclude l'altro. No. Infatti il Movimento 5 Stelle, lo dico per correttezza, nel proprio programma di lavoro inserisce il salario minimo. Tra l'altro io vengo da una regione come quella piemontese, del Piemonte, io sono piemontese, in cui qualche giorno fa è stato condannato l'attuale consigliere, presidente del Consiglio regionale del Piemonte, perché era a capo di una cooperativa, la REAR, che sottopagava i dipendenti, in barba all'articolo 36 della Costituzione. E questa cosa è molto grave, perché se addirittura un personaggio istituzionale che siede in Consiglio regionale da anni con il simbolo del Partito Democratico non è in grado di essere a capo di una cooperativa e pagare il minimo sindacale un lavoratore, mi chiedo come Renzi possa pensare di parlare di salario minimo. Dovrà pulire anche quelli di casa sua, per così dire. Allora, andiamo alla vostra proposta. Per noi c'è nel programma il salario minimo, per noi è importantissimo, e c'è il reddito di cittadinanza. Sottolineo anche che il Movimento 5 Stelle è una delle poche forze politiche che è riuscita a metterlo in discussione in questi anni. Sono 5 anni dal primo giorno che siamo entrati in Parlamento al Senato questo testo di legge, poi è stato agglomerato altre proposte che, come raccontava lei, hanno soglie molto diverse. Per il nostro reddito di cittadinanza, che peraltro in questi giorni in Europa è stata siglata questo documento che dice che è necessario il reddito di cittadinanza. No, l'Italia europeo è indietro ed è indicata da decenni come un paese avanzato, esatto, che non ha uno strumento universale di lotta alla povertà. Quindi è così. Esatto, e riguarda il fatto che chi si trova sotto la soglia di povertà, che oggi per l'Italia è 790 euro, possa, nel caso che tu sia pensionato e quindi percepisca una cifra inferiore, raggiungere almeno la soglia di povertà. E in Italia le persone che oggi hanno una pensione sociale sono moltissime, e quindi a loro sarebbe applicata il reddito di cittadinanza fino a portarlo a 7,90. Per capirci, significherebbe che rispetto al livello attuale dell'integrazione al minimo della pensione sociale ci sarebbe un innalzamento di circa 270 euro mensili per arrivare appunto a 780 euro mensili, che sarebbe la soglia da portare, che poi ha un criterio statistico, e lo dico, non è sognata a capocchia dai politici, perché sono i 6 decimi del reddito mediano equivalente familiare, e quella indicata anche dall'Unione Europea. Bravissimo, esattamente. E poi chiaramente vale per chi perde il lavoro e quindi esce dal circuito del lavoro, si iscrive agli uffici di collocamento, ai centri per l'impiego, che nella nostra proposta prevedono un risanamento. Oggi i centri per l'impiego non funzionano bene, addirittura ricevono soldi dallo Stato in relazione al numero di disoccupati che hanno e non in relazione al numero di occupati che riescono inserire nel mondo del lavoro. È veramente pazzesco, e ovviamente vale anche in relazione al nucleo familiare che si ha, quindi si arriva fino a più o meno 1.300 euro in relazione al numero di figli minori e quant'altro. Questo è associato al fatto che se per caso un cittadino prende il reddito di cittadinanza e non aveva diritto, ci sono anche delle sanzioni penali che arrivano fino a non mi ricordo più quanti anni di carcere, però è prevista la sanzione non solo della restituzione totale, ma anche penale del fatto di essersi appropriato di un diritto che non aveva. Questo è molto importante, perché spesso qualcuno ci dice, per dire che non è importante affrontare la povertà, sì, però poi l'italiano medio si mette sul divano e prende il reddito di cittadinanza. In più, mentre si prende il reddito di cittadinanza, si fa... In termini tecnici, la interrompo solo per dare informazione, non perché... si chiama, in termini tecnici, questa, che è una critica, tra virgolette, storica a molti strumenti di sostegno ai redditi concepiti con il requisito dell'universalità, è una critica storica che passa sotto il nome di trappola della povertà, cioè... in parole non tecniche, cari ascoltatori, se li abituate ad avere un assegno che può arrivare fino a 1.300 rotte al mese a seconda dei componenti familiari e delle condizioni di reddito della famiglia, gli passerà a molti la voglia di diventare attivi e quindi di mettersi a cercare lavoro. Ma la risposta a questo sta proprio dentro il nostro reddito di cittadinanza, che prevede che il centro per l'impiego ti offre delle possibilità di lavoro e tu non puoi più di due volte, quindi al terzo lavoro che ti offrono, se non accetti, ti togliamo il reddito di cittadinanza. E questo è un modo che funziona. E per questa si chiama la condizionalità, appunto, cioè non è universale a prescindere da una partecipazione e formazione al mercato del lavoro. In più ci sono altri due fattori. Uno è che chi riceve il reddito è obbligato a mettersi in moto con il proprio ente locale per svolgere delle attività di volontariato per il proprio ente. Questo rientra in quel circuito per cui lo Stato ti dà qualcosa e tu devi dare qualcosa allo Stato nel frattempo. Ultimo, ma non ultimo, l'abbiamo sollevato qualche settimana fa, è un aspetto un po' più tecnico che però ci tengo molto a sottolineare. Questo strumento, in termini tecnici e in termini anche di conteggi europei, modifica un calcolo che è il calcolo del PIL potenziale, cioè quello che fa l'Europa per dirci quanti si chiamano spazi finanziari, quanta spesa pubblica, quanta spesa paese pubblica può fare. E quanto deficit. Questo strumento del reddito di cittadinanza trasforma le persone che oggi non sono in cerca di lavoro in persone che cercano lavoro. Questo, per i calcoli europei che determinano quanti soldi il paese può impiegare nella spesa pubblica, significa aumentare di circa 15-17 miliardi la possibilità di fare investimenti per questo paese, e sono tantissimi. Cioè, perché significa, spieghiamolo ancora, mi scusi se io faccio la parte un po' del vecchio maestro Manzi, cioè siccome le persone diventerebbero attive, sarebbero tra virgolette costrette, perché altrimenti mancherebbe un requisito per incassare il sostegno, a diventare attive, questo fa innalzare il PIL potenziale, non il PIL reale, ma il PIL potenziale, quello che il paese potrebbe realizzare con le forze che cercano lavoro, e a quel punto la distanza tra il PIL potenziale e il PIL reale, cioè quello che si chiama in termini tecnici l'output gap, cari ascoltatori, diventa la misura di quanto la spesa corretta per il ciclo sull'output potenziale può andare in deficit e salire. Ecco, tento sempre di spiegare fare perché altrimenti sembrano arcani. In realtà ci sono delle regole che bisogna conoscere, che sono queste qua. Ma quanto costerebbe? Allora, per noi, dalle nostre stime, costa l'anno 1 17 miliardi, perché dentro c'è anche la riforma dei centri per l'impiego, quindi 2-3 miliardi sono dedicati a quello, e quelli sono soldi che si spendono una volta, si rimette in moto e si rimette in sesto il personale, il modo di gestire il centro per l'impiego, e quindi non si spenderanno i 2-3 che servono per passare alle politiche attive del lavoro vero, quello che manca nel nostro paese. Ecco. Poi... Esatto, e poi ci sono quelli reali dei numeri che oggi rappresentano le persone che andrebbero a prendere il reddito di cittadinanza, che sono circa 15 miliardi, considerando che è una cifra che mano a mano diminuirà. Secondo noi si può assolutamente gestire con l'utilizzo di spesa corrente, quindi di risorse che oggi sono utilizzate per altro, ce ne sono di varie e variegate, e sono reali perché sono certificati tutti gli anni dal servizio bilancio della Camera e del Senato. Ma quanto di questo secondo voi andrebbe coperto intervenendo sulla spesa e quanto invece in deficit, per essere chiaro? Perché noi abbiamo alle spalle, non lo devo ricordare a lei, ma lo ricordo sempre a chi ci ascolta, per Spending Review ci hanno venduto una roba che è stata riallocazione di spesa senza farla scendere in questi anni. Perché è tutto considerato spesa corrente, quindi è tutta spesa di recupero e niente nuovo deficit. Questo è molto importante perché quando anche gli uffici dei servizi studi di Camera e Senato, diciamo così, certificano le coperture quando noi lo presentiamo in legge di bilancio, significa che questi soldi ci sono realmente. Certo, è una scelta politica. No, è una scelta politica perché in Italia basta toccare un po' la spesa pubblica e scendono i battaglioni degli interessi organizzati, questo è il punto. Per esempio, è una scelta politica decidere di diminuire le deduzioni sugli interessi bancari, che oggi stanno al 97% e noi vorremmo abbassare all'88%, per esempio. Ecco, allora io ricordo a questo proposito, noi non abbiamo il tempo di scendere tutti i particolari tecnici, io la interrogherei, è sbagliato, non sono il maestro, però le farei domande per spiegare meglio per moltissimo tempo, ma il tempo è quello che... Però io ricordo a chi ci ascolta che noi insieme all'Austria siamo il paese avanzato con la maggiore quantità, nella fantasia derogatoria del fisco italiano, di deduzioni e detrazioni ad hoc. Nel nostro ordinamento il MEF ne censisce ufficialmente 444, di queste 444 il più vanno a categorie di impresa, eccetera eccetera, poi ce ne sono oltre 150 rivolte alle persone fisiche. Di queste le persone fisiche ce ne sono delle più varie, diverse, fino alle spese per i veterinari, quelle per le palestre e così via, ma ce ne sono 88 che si concentrano invece sul reddito, deduzioni e detrazioni a seconda appunto delle detrazioni familiari, le detrazioni diversificate per ciascun tipo di attività, dei costi sostenuti per realizzare il reddito. Noi siamo un fisco, per così dire, inventivo, dove a seconda di chi ha più forza rispetto alla politica c'è una deduzione e una detrazione diversa. Nella vostra proposta, la domanda che le faccio è: le deduzioni e detrazioni che riguardano le attuali detrazioni familiari, quelle che intervengono direttamente rispetto alla composizione fiscale lorda del reddito al quale applicare i requisiti della vostra proposta, si toccano e si modificano? E le centinaia di strumenti locali di comuni e regioni che in maniera totalmente diversificata in Italia senza omogeneità intervengono a sostegno dei poveri sono ricomprese in un disegno e quindi sono parte di quota del finanziamento di quei 15 miliardi? Perché una volta che uno si dà una misura nazionale omogenea è inutile averne poi centinaia diverse a seconda, a quel punto, non della giustizia locale ma solo della quantità di margine che ha finanziariamente l'ente locale e di quanto conta questa priorità rispetto a chi lo amministra. Ma questa roba verrebbe compresa in un ridisegno di semplificazione organica nella vostra proposta oppure no? Allora, sul reddito di cittadinanza nelle coperture c'è solo una modifica sull'architrave, diciamo così, delle deduzioni e detrazioni, che sono una riduzione minimale delle detrazioni dei redditi sopra gli 80.000 euro. Okay. Questo però è solo un aspetto, perché poi il Movimento 5 Stelle sta concludendo e chiudendo, e poi ve lo racconterà appena comincia la campagna elettorale delle nazionali, quella che sarà poi la nostra proposta di riforma fiscale, che invece prevede una rimodulazione. Appunto. C'è una riforma fiscale più generale nella quale si incardina. Mi faccia dire una cosa, sì? Noi siamo l'unica forza politica che in questi anni ha parlato di tax expenditure e l'ha letta voce dopo voce, cioè, tutte le voci che lei raccontava, abbiamo trovato delle cose più terribili. Ecco, ci sono delle cose sulle quali uno può amare l'impresa come me, ma siccome io apro l'impresa in concorrenza, la amo, e ci sono tanti amici degli amici in quella deduzione di detrazione, questa è opinione mia, non la metto in bocca a nessun altro, amici degli amici, e mi dispiace, questo riguarda anche categorie di Confindustria e così via, perché insomma, parliamoci chiaro, la storia è stata fatta di tentativi di, tra virgolette, rendere captive il regolatore tributario, c'è chi ci è riuscito meglio, c'è chi è riuscito peggio, il carico fiscale è bestiale, quindi io capisco questo tentativo, però la disomogeneità di questo quadro è totale, cari ascoltatori, a parità di unità di capitale, di unità di reddito nel nostro paese, esistono più di 100 sistemi di tassazione, aliquote, deduzioni e detrazioni diverse, perché in realtà, ricordatevelo bene, l'IRPEF grava con le sue 5 aliquote progressive solo sul reddito da lavoro e pensioni. Tutti gli altri cespiti di reddito, persone fisiche, quello da immobili, da capitali, eccetera eccetera, è tutto tassato con aliquote proporzionali, discrezionali della politica e diversificate a seconda del tipo di cespite, per cui per esempio da capitali lo Stato fa gli affari suoi e dice che pagate solo il 12,5% proporzionale, poi se avete un certo tipo di impiego finanziario il 20 o il 21, era fino al 26, adesso sta scendendo, e così via. Il reddito personale da microimprese, se siete un autonomo, negli ultimi anni c'è una soglia addirittura zero, poi ce n'è una del 5, del 10, del 15%. La mia domanda è: ma perché non si mette tutto nel reddito persone fisiche e si fa una questione di omogeneità? Ma questo ha a che vedere con la riforma fiscale. Intanto grazie anche a Laura Castelli e Andrea Garnero, adesso siamo in ritardo incredibile, ma andiamo con la pubblicità e la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, giusto per lanciare il traffico, perché oggi è giorno di festa, vediamo anche le informazioni sulle strade e poi andiamo invece all'imposta negativa, dopo aver tentato di capire meglio cosa in testa Renzi parlando di salario minimo. Abbiamo rispiegato il reddito cittadinanza dei 5 Stelle e poi andiamo alla terza proposta, quella dell'imposta negativa. Strade. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qua, e in questi 12 minuti conclusivi tentiamo di capire, dopo il salario minimo, Renzi ce lo ha annunciato, abbiamo riepilogato quanto sia limitato l'effetto del reddito di inclusione, potenziato di 300 milioni nella legge di bilancio 2018, ma stiamo parlando di 110.000 famiglie, 106.000 sul 1.600.000 di famiglie in povertà assoluta e 4.700.000 individui che stanno in povertà assoluta. Avete sentito il reddito di cittadinanza 5 Stelle, e andiamo col professor Nicola Rossi, che ringrazio di essersi reso disponibile in questo giorno di festa, invece a capire quale potrebbe essere la terza proposta rispetto a quelle che avete, le due che avete sentito, cioè l'imposta negativa. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a voi. Come funzionerebbe? Con quali rivolto a chi? Con quali modalità è condizionale, oltre che è condizionato a che cosa di preciso? È una misura universale o no? E quanto costerebbe e come verrebbe coperto? Vediamo prima la logica. Allora, oggi, se si è, come si dice con un termine, diciamo, eufemistico, incapienti, e cioè se si ha un reddito per il quale non si pagano imposte, per lo Stato si è dei totali sconosciuti. Cioè lo Stato ti chiede quando può chiederti, ma quando in realtà, diciamo, non ce la fai, si limita semplicemente a dirti non ti conosco. Nell'imposta negativa invece lo Stato chiede quando può chiederti, ma ti dà quando non ce la fai. Quindi al di sotto di un certo reddito, quando appunto non si ha un reddito tale per cui si devono pagare imposte, lo Stato a quel punto interviene a sostenere il reddito della persona che si trova in quelle condizioni. è condizionato o non è condizionato, ora entriamo nei dettagli. Via via che il reddito della persona si riduce fino addirittura ad essere zero, evidentemente l'integrazione cresce, ma non è un'integrazione incondizionata. Si può, nella proposta diciamo, che ho formulato con l'Istituto Bruno Leoni, si può diciamo, facilmente costruire un sistema di condizioni, alcune delle quali sono di carattere del tutto generale. Bisogna essere stati residenti almeno 5 anni in Italia, bisogna se per caso nella famiglia ci sono dei minori che questi vadano a scuola, seguono la scuola dell'obbligo, bisogna non essere evasori totali, insomma una serie di condizioni credo semplicemente di buon senso. La condizione principale è che se non si è in condizioni come per esempio l'anziano ultra 65enne che non ha un reddito sufficiente, oggi viene integrato con l'integrazione al minimo, con la pensione sociale, in questo caso riceverebbe appunto questo trattamento, naturalmente in quel caso altre condizioni, oltre quelle che ho detto, non ci sarebbero. Ma se sia per esempio un giovane che oggi è totalmente sconosciuto per lo Stato quando si trova in queste condizioni, che cosa accade? Beh, la proposta è semplice, diciamo, il trattamento assistenziale in questo caso viene attribuito per un anno, per il secondo anno in parte un trattamento assistenziale, in parte un voucher contributivo che il singolo può spendere presso un datore di lavoro in maniera tale da dare a se stesso l'opportunità di darsi un reddito. Però torniamo al principio che secondo me è la cosa più interessante, cioè tutto ciò che è imposte e benefici viene condensato in un unico strumento, che è uno strumento di prelievo oltre un certo livello di reddito ed è uno strumento di sostegno e di assistenza al di sotto di certi livelli di reddito. Questo significa che mettiamo completamente fuori solo tutto ciò che è sostenuto da un contributo e quindi chiamiamo invece, come giustamente è, previdenza, solo ciò che è giustamente sostenuto da un contributo. Questo significa finalmente, diciamo, raggiungere il santo graal della separazione tra assistenza e previdenza. Oh, questa tentiamo di far capire meglio quali sarebbero le soglie, cioè quale sarebbe la soglia del minimo vitale alla quale poi arriverebbe l'integrazione. Allora, nell'esempio che abbiamo fatto, ovviamente diciamo, quindi a seconda delle risorse che si hanno a disposizione si possono trovare soluzioni diverse. Noi abbiamo immaginato che questa proposta, che è una proposta di riforma dell'intero sistema fiscale di assistenza, costi 27 miliardi, tutti da reperire, attraverso tagli di spesa. È evidente che una cosa di questo genere sta in piedi solo se, come dire, le minori entrate vengono coperte da minori uscite, diciamo. Quindi il costo per quanto ci riguarda appunto è questi 27 miliardi. Vediamo, facciamo degli esempi. Un single, per esempio, che vivesse nel nord, che appunto fosse un lavoratore dipendente, oltre 11.000 euro non pagherebbe le imposte, pagherebbe esattamente il 25% della differenza. Quindi se guadagnasse 12.000 euro pagherebbe 250 euro di imposta. Sotto gli 11.000 euro non paga imposta, ma questi, se invece diciamo appunto si trova sotto gli 11.000 euro, fa 11.000 euro e 7.000 euro, si trova in una zona che è una zona in cui non raggiunge ancora quello che per noi è quello che chiamiamo il minimo vitale, cioè la soglia sotto la quale non si hanno i mezzi per vivere una vita dignitosa. Quindi fra 7 e 11.000 euro. Anni naturalmente. Anni certamente. Tra 7 e 11.000 euro, supponiamo l'individuo guadagni 10.000 euro e 1.000 euro sotto il livello oltre il quale c'è l'imposta, lo Stato integra con il 25% di quella differenza. Quindi se guadagna 10, lo Stato gli dà 250, non gli prende. Se infine tocca i 7.000 euro e guadagna anche meno di 7.000 euro, lo Stato lo integra con ciò che gli serve per raggiungere il livello di una vita appunto dignitosa. Quindi se guadagna 6, gli dà 1.000. Naturalmente se invece ci trovassimo di fronte ad una coppia con un figlio con, che vive diciamo sempre nell'Italia centro-settentrionale, con il marito lavoratore dipendente, la moglie a carico e con il figlio per esempio appena nato, questo fa una grossa differenza, la coppia non paga imposte fino a 28.000 euro. Tra i 28.000 euro e i 12.000 euro che rappresentano l'obiettivo appunto per una vita dignitosa, lo Stato integra con un quarto, quindi se la coppia guadagna 20.000 riceve 2.000, cioè un quarto di 28 meno 20, se infine la coppia appunto guadagna meno di 12, lo Stato integra del tutto, quindi se la coppia guadagna 10, il livello per una vita dignitosa è 12, lo Stato gli dà 2. Ecco, c'è questa proposta, a differenza, cari ascoltatori, del salario minimo che abbiamo visto all'inizio, o del reddito minimo di garanzia, o del reddito di cittadinanza, avete sentito, gliel'ho chiesto apposta alla deputata 5 Stelle, ha una caratteristica, si incardina su una revisione generale del sistema fiscale dell'imposta sui redditi del nostro paese, e quindi gioca con il limite di esenzione generale dall'IRPEF, poi con la soglia del minimo vitale, è strutturata su base familiare e non più su base dell'individuo unico obbligato al rapporto fiscale, come nel nostro paese da metà degli anni 70 per una sentenza della Corte Costituzionale. E domanda però, perché i 5 Stelle ci hanno detto no, noi modifichiamo del totale delle deduzioni e detrazioni delle tax expenditures italiane solo quella che ha a che vedere con i figli, poi vedremo quando faremo la proposta generale sul fisco. Nel caso invece dell'imposta negativa incardinata su questa revisione generale del sistema fiscale, si interverrebbe anche su le più di 80 detrazioni e deduzioni sulle imposte alle persone fisiche che si incardinano intorno al reddito e alla famiglia, oppure no? Assolutamente sì, nel senso che verrebbero eliminate tutte le agevolazioni, deduzioni e tutto quello che sia, diverse da le deduzioni per oneri di produzione del reddito per il lavoro dipendente, per i redditi da pensione da lavoro autonomo, nonché tutte quelle deduzioni legate ad eventi già intervenuti. Mi spiego, le incentivi per le ristrutturazioni delle case, se uno ha già cominciato a fare quella cosa lì non ha senso, diciamo, il principio della non retroattività delle norme fiscali dovrebbe essere sacro, dovrebbe. Quindi, in Italia diciamo, no, però dovrebbe. No, lo so, ma diciamo dovrebbe essere sacro, quindi in quel caso è ovvio che rimane tutto lì, tutto il resto si elimina. Facciamo degli esempi però perché chi ci sente capisca di che cosa ci stiamo preoccupando. Stiamo eliminando per esempio la deduzione per i minori che vanno in palestra, circa 40 euro a testa per un milione di individui, senza limiti di reddito, un evidente trasferimento a carico delle famiglie più abbienti, a favore delle famiglie più abbienti. Stiamo eliminando la deduzione per i notai che lasciano il lavoro, circa 90 individui se ricordo bene, a cui vanno qualche migliaio di euro di deduzioni tendenzialmente per persone ad elevato reddito. Stiamo eliminando la deduzione delle spese del veterinario, diciamo. Ecco, tutte cose che sono modalità con le quali in Italia si fa una cosa con la mano, con una mano, e si, cioè si dice che l'imposta è progressiva e si disfa con l'altra. E si disfa con l'altra, perché come ho ricordato prima, in realtà abbiamo un'imposta progressiva solo su redditi da lavoro e tutto il resto no. E comunque poi con queste centinaia di deduzioni e detrazioni, chi è stato più bravo a catturare il politico si becca cose che hanno un effetto regressivo, perché sono finanziate da chi sta sotto e incassate da chi sta sopra nella piramide dei redditi. E resta anche il grande problema che l'ascoltatore dimette ordine e omogeneità nei centinaia di programmi locali di soldi di sostegno alla povertà, che anche in quel caso non sono eque affatto. Allora, tre proposte diverse, ma comunque ben tentato di spiegarvele, grazie anche a Nicola Rossi. Appuntamento con domani mattina alle 8:15 con me e Luca Telese a 24 mattina, e poi il pomeriggio come sempre, come oggi anche alla versione di Oscar.